Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Antonella Nonino. Arte e distillazione della grappa. A cura di Anna Marino. Assolutamente, padre Davide Maria Turoldo, questo straordinario poeta appunto friulano e membro della giuria del premio Nonino proprio dalle origini, che in un testo che peraltro ha dedicato al premio Nonino, la nostra famiglia, parla della grappa come dell'acqua di fuoco che ti bruciava nelle vene e ti dava la forza per andare avanti. Ecco, questo era la grappa nei tempi antichi, nei tempi passati, e pensando come i miei genitori sono riusciti a trasformare questo straordinario peraltro distillato, che veniva considerato quasi un medicinale, un qualcosa di salvifico, però contadino, rozzo, solo per appunto la gente più povera, riuscire a trasformarla in un prodotto del Made in Italy che viene ormai apprezzato in tutto il mondo, ovviamente riempie le mie sorelle e me di grande orgoglio. Così Antonella Nonino, amministratore delegato insieme alle sorelle Cristina ed Elisabetta dell'omonima azienda, associa un autore e una poesia alla grappa, ragione di vita dell'impresa di famiglia. David Maria Turoldo è stato poeta e religioso dell'Ordine dei Servi di Maria. Antonella Nonino lo ha conosciuto grazie al Premio Internazionale Nonino, che cura in prima persona. La famiglia Nonino si dedica all'arte della distillazione fin dal 1897 a Ronchi di Percoto, in Friuli. Ed è arrivata alla quinta generazione, quella di Cristina, Antonella ed Elisabetta Nonino, figlie d'arte, che si occupano dell'azienda a tempo pieno da alcuni anni, ma si può veramente dire che sono nate nella vinaccia. La distillazione però non è la sola arte che ha trovato a Percoto il suo luogo di elezione. Il Premio Internazionale Nonino nasce infatti il 29 novembre 1975 per sottolineare la permanente attualità della civiltà contadina, come racconta Antonella Nonino. Le mie sorelle ed io ovviamente siamo molto orgogliose, pensando a quello che i nostri genitori sono riusciti a fare, anche perché lo hanno fatto in una maniera assolutamente spontanea. Cioè, il loro desiderio era di distillare dopo il picolito un'altra varietà di vinaccia, tipicamente un vitigno friulano, e andando alla ricerca della ribolla si sono resi conto che ribolla, schioppettino, pignolo e tacelenghe, che sono i vitigni autoctoni friulani, per una assurda legge che li aveva dimenticati nella lista dei vitigni presenti sul territorio, erano diventati fuori legge. E siccome appunto i nostri genitori sono sempre stati dei grandi conoscitori delle tradizioni della nostra regione, del Friuli, e l'hanno sempre portata avanti per farle conoscere, proprio perché loro ne sono innamorati, hanno istituito il premio Nonino, che nasce come Risittaur, che vuol dire barbatella d'oro, proprio per salvare quei vitigni che stavano scomparendo, perché trovavano assurdo che in Friuli si portasse avanti la coltivazione del Merlot, dello Chardonnay, e si dimenticassero vitigni che avevano fatto la storia della viticoltura in Friuli. Il premio è stato istituito nel 75, nel 1978 siamo riusciti ad ottenere l'autorizzazione al rimpianto di questi vitigni, dall'84 sono addirittura raccomandati. Negli anni poi il premio Nonino era diventato un appuntamento importante, indubbiamente ai nostri genitori piace anche molto l'idea di stare insieme alla gente, di condividere quelle che sono le loro passioni e il loro lavoro, e quindi ad una sezione prettamente tecnica legata quindi alla viticoltura hanno collegato una parte letteraria. Pensiamo che il primo presidente della giuria letteraria era Mario Soldati, con Luigi Veronelli, Gianni Breri, abbiamo citato prima padre Davide e Maria Turoldo, quindi personaggi veramente straordinari che negli anni hanno fatto crescere il premio, un premio che ancora oggi è un premio assolutamente libero, che portiamo avanti come famiglia e solo col nostro sostegno, e che organizziamo noi internamente con le distillerie appunto Nonino, e tutte le persone che normalmente si occupano quindi della vendita oltre che della produzione della grappa con noi, che ci aiutano durante il mese di gennaio, si dedicano a questo straordinario momento che porta in Friuli personaggi della cultura internazionale. Oggi addirittura il presidente della giuria è il premio Nobel per la letteratura 2001 Vidya Naipaul, e tra i vari componenti ricordiamo Claudio Magris, Ermanno Olmi, Edgar Morin, Emmanuel Roladuri, veramente personaggi importantissimi. Il meccanismo della premiazione ha una forte componente familiare, come spiega Antonella Nonino. Ti ha la famiglia che la giuria propongono dei candidati. Io seguo la segreteria e devo dire che è un momento veramente per me meraviglioso, perché io ho sempre amato gli studi legati in qualche modo alle materie letterarie, e quindi per me sono occasione di approfondimento e di studio. Raccolgo il materiale, lo faccio avere a tutti gli altri giurati, e poi, avvicinandosi la data, normalmente il premio si tiene sempre l'ultimo sabato di gennaio di ogni anno, ovviamente le candidature diventano più, diciamo, importanti, e si avvicina il momento in cui la giuria fa le sue scelte. E ricordo con grande affetto e anche con grande nostalgia Leonardo Sciascia, che ha avuto il premio Nonino nel 1983. Lui è venuto a Percoto addirittura, siamo rimasti in uno splendido rapporto, tale che è tornato anche a passare un'estate a Percoto, dove ha scritto Il Cavaliere e la Morte, il suo ultimo libro. È un ricordo che porto proprio nel cuore. Da quando è nato il premio, si sono alternati scrittori, drammaturghi, attori, registi, antropologi, scienziati, imprenditori. Antonella Nonino li ricorda uno per uno, e di ognuno ha un ricordo. Un momento molto intenso è stato quando Peter Brook è venuto a Percoto per ricevere il premio Nonino, e durante la sua prolusione ha dichiarato di fronte a tutti che proprio venire in Italia e incontrarci ha capito veramente qual è il significato in italiano della parola famiglia. La vita culturale attuale è fondamentale per Nonino, ma le origini della famiglia sono lontane nel tempo. Orazio Nonino, capostipite della famiglia, stabilisce proprio a Ronchi di Percoto la sede della propria distilleria, esistita fino ad allora solamente sotto forma di un alambicco itinerante, montato su ruote. Ad Orazio succede il figlio Vigi, che espande la sua fama in tutto il Friuli e sposa Silvia Milocco, la prima grappaiola d'Italia. Nel 1933 è sancito l'obbligo di imbottigliamento della grappa. Nasce così la prima etichetta Nonino. Suo figlio, Benito, sposa poi Giannola Bulfoni. Dal loro matrimonio nascono Cristina, Antonella ed Elisabetta. Poi la crescita esponenziale dell'azienda e i continui riconoscimenti. Giannola Bulfoni Nonino nel 1998 viene nominata Cavaliere del Lavoro. Antonella Nonino va con i ricordi alla strada percorsa dai primi passi dell'azienda, la radice dei suoi valori. L'impresa nasce già con le prime generazioni, perché Orazio Nonino è la prima data certa che abbiamo di questo trisavolo che ha messo a fissa dimora l'alambicco, che fino al 1897 era su ruote. Consideriamo che ovviamente una volta nel Friuli agricolo chi aveva l'alambicco era proprio l'ultima ruota del carro, era proprio il più povero della famiglia, perché a quello più fortunato toccava o quel pezzettino di terra o la mucca, quindi l'alambicco era proprio l'ultima parte, diciamo, di eredità che restava nella famiglia contadina. E già con i genitori di mio padre la grappa Nonino era considerata un'ottima grappa in Friuli. Abbiamo delle bellissime lettere di persone che, passando da Percoto, elogiavano la grappa Nonino. Però indubbiamente il momento, la grande svolta, c'è stata nel 1973. Giannola e Benito, appunto, i nostri genitori, innanzitutto dobbiamo ricordare che la mamma, appunto, è acquisita in famiglia, ha iniziato a lavorare col papà in distilleria, perché appunto siamo un'azienda familiare. Si è innamorata di questo straordinario distillato, ma si è resa conto che in città, ma nelle grandi occasioni, nelle occasioni importanti, la grappa veniva snobbata. La gente preferiva offrire i cognac, i whisky, ma mai la grappa, che veniva bevuta all'osteria. Anzi, quella volta le donne neanche l'avvicinavano, quelle che la bevevano erano considerate proprio male, diciamo. E era proprio legato a questo concetto di contadino e quindi di povertà, si portava dietro questo retaggio culturale tremendo. E lì, devo dire, il desiderio di nobilitare questo prodotto che faceva parte della nostra vita, della nostra tradizione. Pensiamo che appunto la grappa è il disserato tipico delle regioni del nord Italia, e la grande caparbietà con la quale i miei genitori hanno fatto prima, perché ovviamente poi è arrivata la grande idea, però hanno fatto tutta una serie di sperimentazioni fino ad arrivare nel 1973 a avere l'idea di distillare una singola varietà di vinaccia per vedere se distillando la grappa Monovitigno Picolit si potevano avere in questa grappa le caratteristiche del vitigno d'origine. Indubbiamente il distillato ottenuto era meraviglioso, però l'altro grande problema è stato anche farlo, come dicevamo prima, assaggiare prima di tutto, perché la gente si teneva lontana dalla grappa. Quindi l'idea, qua indubbiamente un'intuizione di marketing che oggi viene portata spesso, ad esempio, anche nelle grandi università, l'idea quindi di utilizzare un'ampolla soffiata che metteva in risalto quindi questo distillato cristallino straordinario, ricco di profumi e di sapori, e che quindi già dalla prima vista si capiva che dentro questa ampolla conteneva un qualche cosa di straordinario. E questo è tutto nato in maniera molto spontanea, sicuramente in maniera anche molto determinata, cioè con la volontà di far di attirare l'attenzione di quelle persone che fino a quel momento disdegnavano di assaggiare la grappa. Ecco, forse l'unico vero rammarico è non essere riusciti ancora, lavorando seriamente, con grande rigore, col metodo artigianale, non essere ancora riusciti ad ottenere una legge che regolamenti la produzione di grappa in Italia, come avviene per i grandi distillati come il cognac, come il whisky. Ecco, in Italia ancora siamo purtroppo lontani da una seria regolamentazione di produzione. Antonella Nonino è responsabile delle relazioni esterne, dell'ufficio stampa e del marketing per l'impresa di famiglia. Segue anche alcuni importanti mercati esteri come la Germania, l'Inghilterra, la Grecia e la Cina. Si è laureata a Udine in lingue e letterature straniere moderne e ha perfezionato gli studi alla New York University e alla Sorbonne di Parigi, dove ha soggiornato per più di un anno. In azienda riveste il ruolo di amministratore delegato. Ecco come ricorda il suo ingresso in azienda. Nelle aziende familiari è una cosa che avviene assolutamente in maniera naturale. Quando eravamo bambine stavamo in distilleria per stare vicino alla mamma, perché era lì giorno e notte, e sabati e domeniche, perché in particolare nel periodo della distillazione noi distilliamo in concomitanza alle vendemmie, perché per la qualità bisogna distillare quando la vinaccia è fresca, e quindi in quel periodo, come per la vendemmia, non ci sono sabati né domeniche. Lo stesso vale per noi. Il passaggio generazionale vissuto dall'interno della famiglia. Antonella Nonino dimostra come si realizza in concreto. Una ricetta non saprei dire, sinceramente. Io posso dire che i nostri genitori ci hanno sempre coinvolte. Ognuna di noi all'interno dell'azienda ha trovato anche un ambito che, a parte durante il periodo della distillazione, dove siamo tutti implicati perché è troppo importante, tutte distilliamo, seguiamo noi, ci facciamo noi proprio la grappa. Per il resto ognuna di noi ha degli ambiti che segue più direttamente. Sposata con l'architetto Luca Cendali, ha due figlie. Antonella Nonino spiega il suo modo di conciliare vita e lavoro. È in continua trasformazione, però devo dire che lavorare in proprio è una grande possibilità per una donna, perché innanzitutto poi io devo tenere presente che io ho avuto una mamma, ho sempre visto una mamma che lavorava, e anche la nonna, perché la mamma della mamma faceva la maestra, anche la nonna da parte di padre lavorava in distilleria, ha mandato avanti la distilleria, era vedova per molti anni da sola. Quindi indubbiamente l'esempio per cui tu cresci in un ambiente dove anche la donna ha sempre lavorato e non c'era differenza tra uomo e donna, chi c'era faceva in base alle sue capacità. La crisi. Antonella Nonino spiega come anche oggi ci sono principi che sostengono l'azienda nell'attraversarla. Noi siamo innanzitutto felici perché abbiamo tenuto duro, però abbiamo sempre innanzitutto investito in ricerca di innovazione. Peraltro in una famiglia cresciuta con questo concetto di rispetto, di rigore, di tradizione, io credo che questo, che la qualità, la trasparenza, l'autenticità del prodotto venga percepito. La richiesta di Grappa Nonino continua ad aumentare e rappresenta oggi il 35% del fatturato. La grappa nel mondo ha però ancora frontiere sconosciute, ma Antonella Nonino spiega come ci sia un linguaggio comune proprio nella lavorazione del distillato. Ci sono sempre dei posti dove ancora della grappa non sanno assolutamente che cosa sia, e devo dire che infatti per me è molto emozionante, andando in giro per il mondo, dalla Cina, dall'Inghilterra, alla Germania, al Sud America, insieme alle mie sorelle, ci accorgiamo che appunto ci sono delle nazioni dove devi iniziare a spiegare la grappa da che cos'è la vinaccia. Però notiamo, andando in giro per il mondo, che in ogni tradizione c'è un... alla base di ogni tradizione c'è la distillazione. Riconoscimenti internazionali, mercato globale, ma le tradizioni locali non si dimenticano, come quella del dialetto, che anche Antonella Nonino conosce. Papà e la mamma lo parlano tra di loro, assolutamente, parlano anche in friulano, e lo usi con le persone che lavorano con te, io devo dire, lo parlo poco, lo capisco. Frut vuol dire anche il frutto, pensare a qualche cosa appunto di fresco, ma frut e frutte vuol dire ragazzo e ragazza, e ti dà proprio questa immagine di freschezza. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili al sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.